desolaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Buongiorno a tutti e tutte, sono sempre le interviste di Volevamo parlarvi di Genova, la nostra serie di interviste per raccontare i postumi e l'eredità di quello che è stato Genova 2001 e suo movimento. Oggi abbiamo una, secondo me, una grande fortuna, che abbiamo acciuffato all'ultimo, è qui con noi Gigi Malabarba. Ciao a tutti. Che nella sua vita ha fatto alcune cose, ma le lascio presentare a lui poi dopo, con le domande che gli facciamo, e vado subito a leggere anche a lui la presentazione di questo progetto. Ciao Gigi e grazie mille per la tua disponibilità. Sappiamo che non è mai facile chiedere a chi era a Genova nel luglio del 2001 di parlare di quell'esperienza, ma riteniamo che sia stato un momento fondamentale della storia dei movimenti e di quello italiano in particolare. Oggi guardiamo a quelle giornate come uno snodo cruciale attraverso il quale si è articolata la nostra storia più recente, ed è proprio attraverso la lente della storia che vorremmo narrare diverse esperienze e punti di vista, tentando di metterle insieme per provare a superare le memorie soggettive, cercando di non giudicare il punto di partenza di ognuno ed ognuna, ma focalizzarci sul punto di arrivo. Punto di arrivo che quotidianamente cerchiamo di costruire in molteplici modi e forme nei territori che attraversiamo e viviamo. A distanza di 20 anni da quelle giornate, riteniamo sia possibile, oltre che doveroso, sospendere le divergenze e provare a trasformare in storia quella che fino ad oggi abbiamo chiamato memoria collettiva. Siamo totalmente consapevoli dell'ambizione di tale esercizio e di quanto fragili siano alcuni rapporti sulla quale si basano gli equilibri del movimento, ma siamo altrettutto consapevoli dei molteplici punti in comune attraverso i quali ripartire con una nuova narrazione. Una narrazione che parta dalla repressione vissuta da tutti e da tutte e che prova ad andare oltre agli errori, oltre alle visioni personali e personalistiche, che parta dalla consapevolezza di aver vissuto un momento unico della nostra storia recente, che parta dalla consapevolezza che a Genova avevamo ragione, lo stato pietoso in cui versa il nostro pianeta, la svalutazione totale delle vite umane sono solo alcune delle tante prove di cui avremmo volentieri fatto a meno. Questa è l'introduzione e a questo punto vado diretto con la prima domanda. Allora, così per rompere il ghiaccio ti chiediamo, tu come arrivi a Genova, di che collettivo facevi parte, di che movimento, di che partito, che clima si respirava, quali erano le tue aspettative e quali erano le relazioni all'interno del movimento che tu avevi vissuto prima di Genova? Beh, devo dire che innanzitutto condivido l'impostazione della premessa, perché oggi bisogna effettivamente ricostruire una memoria condivisa almeno in tutte quelle aree che si pongono da un punto di vista di costruzione di un altro mondo possibile. Quindi mi trovo già su una lunghezza d'onda molto, molto simile. La mia situazione è particolarissima, perché io sono sempre stato dentro il movimento dei lavoratori e negli anni precedenti del 2001 mi trovavo in una fabbrica che si chiamava Alfa Romeo di Arese. Ero stato appena licenziato, era l'ennesima espulsione, un licenziamento politico nel dicembre del 1999, e quindi mi ero trovato nella condizione, nel mio sindacato di base, che allora era il Sincobas, l'esperienza era quella del Cobas dell'Alfa Romeo, di lavorare a tempo pieno, nel senso che noi non avevamo persone staccate, ma erano tutte persone, operai, lavoratori, comunque diciamo impegnati in produzione. Il licenziamento mi consente per quell'anno di poter fare a tempo pieno l'attività sindacale, e c'è una cosa che in particolare sto seguendo come coordinatore nazionale di quel sindacato, cioè un tentativo di mettere insieme tutto quello che era il sindacalismo antagonista, sindacalismo di base. Una cosa che nasceva da una spinta positiva soprattutto nel settore dei trasporti e poi anche dalle convergenze di alcune iniziative internazionali. Ci sono infatti in quegli anni, dal 98, 99, 2000, dei tentativi a livello europeo di costruire dei momenti di coordinamento delle forze sindacali antagoniste. Noi guardiamo in particolare un'esperienza positiva, che è quella francese, che costruisce un'integrazione fra vari sindacati di base in varie categorie, che diciamo si definisce Solidaire, e cerchiamo di fare altrettanto. Questa è un po' la mia attività fino diciamo ai mesi immediatamente precedenti il G8 del 2001. Mi trovo però anche in una condizione particolare, c'è cioè la campagna elettorale, Rifondazione mi candida al Senato a Milano, mi capita anche di essere eletto proprio nel maggio del 2001, per cui la mia attitudine, che è quella di essere all'interno dei movimenti, soprattutto su questo versante, diciamo, dell'organizzazione dei sindacati di base, per cui ad esempio a marzo del 2001 mi ritrovo in piazza Napoli, in particolare con una convergenza tra Sincobas e Cobas, Confederazione Cobas, che tenta tra l'altro di fare un'unificazione, mi ritrovo dalla parte, diciamo, dei manifestanti che si scontrano con le forze dell'ordine in una prova che poi capiremo meglio dopo essere una delle prove generali diciamo, che l'apparato dello Stato decide di mettere in campo per cercare di farla finita con un movimento che non riesce più a controllare. Mi ritrovo quindi in questo mese di maggio nel passaggio tra un militante diciamo di movimento a diventare parlamentare, poi capogruppo di Rifondazione al Senato diciamo a svolgere un altro tipo di ruolo nel luglio, poco dopo, ed è questa un po' la situazione, no? In cui combino la mia presenza sindacale tradizionale dentro il percorso di Genova, che è legato nei giorni precedenti, il 19, 20 e 21, a degli incontri internazionali. In particolare mi capita di partecipare all'organizzazione di due incontri, uno con al centro la Confederation Paysanne di José Bové, che era andata alla ribalta internazionale soprattutto per le iniziative di contestazione e assalto di McDonald's, mettendo quindi in luce uno degli aspetti importanti, no, della crisi ambientale legata molto alla distruzione del cibo buono, cibo spazzatura e cose di questo genere, con un movimento contadino che queste cose porta avanti all'interno di una grande struttura internazionale costituita da pochissimo tempo, che si chiama la Via Campesina, e con la CUT brasiliana, con cui c'erano stati dei rapporti già nel passato da parte della mia organizzazione sindacale. Quindi nei giorni precedenti seguo queste cose, e per quello che riguarda le piazze tematiche prima della manifestazione generale partecipo alla diciamo all'iniziativa con una presenza dei COBAS in piazza da Novi diciamo della mattinata del 20 di luglio. Questo è un po', diciamo, il percorso precedente. Poi naturalmente ci sono tutte le vicende legate specificamente a quei giorni, in cui mi capita di dover combinare la militanza che svolgevo prima in un'attività invece di tentativo di tutelare la manifestazione dall'aggressione della polizia. Ok. Beh, abbastanza esaustiva come risposta. Ma all'interno invece, dato che un po' di cose su Genova ormai le abbiamo capite, dato che le interviste che abbiamo fatto sono tante, all'interno del Genova Social Forum, del Social Forum, quali erano i rapporti tra le varie anime che animavano la discussione e l'organizzazione per Genova? Beh, questa parte qui è quella che ho seguito in realtà molto meno, nel senso che per noi c'era un ragazzo molto conosciuto, soprattutto negli anni anche a venire, che si chiama Luciano Mulbauer, e che era un po' il mio referente dentro il Genova Social Forum. Perché, qualcosa lo sappiamo di Luciano, effettivamente, abbiamo fatto l'intervista l'altro giorno, per cui ci siamo. Immagino. Infatti tutte quelle dinamiche interne sono seguite soprattutto da lui per noi, anche se mi è abbastanza chiaro, no, che sono presenti diciamo tendenze molto diverse diciamo da frange più tradizionalmente legate all'associazionismo tra virgolette moderato, anche se in una fase di evoluzione interessante, perché prendiamo ad esempio l'Arci di Tom Benettollo, in quella fase insieme alla FIOM rappresentano un qualcosa di diverso da quello che erano state in precedenza queste diciamo strutture tradizionali legate al movimento dei lavoratori, no? Per arrivare andare poi ovviamente a tutte le altre componenti legate alle varie aree di movimento. Quello che ritengo interessantissimo è che ci sia stata una spinta nata soprattutto a Porto Alegre, che è stato il primo social forum mondiale, dove c'è stata una richiesta di unificazione, no? Di costruzione di convergenza e di costruzione anche di momenti di partecipazione dal basso, che forse hanno spinto componenti diverse a costruire un momento unitario, perché quello che si era manifestato nel corso degli ultimi 2 anni da Seattle in poi è che c'era la possibilità, lo scoprivamo per la prima volta, di poter tenere insieme nelle piazze anche modalità di pratiche molto diverse tra di loro. Per cui, pur continuando le discussioni accese sicuramente, si crea un'istanza che è riconosciuta da tutte, che è il Genoa Social Forum, e dentro quella cosa, quello che mi capita di seguire di più, ripeto, per me è la parte dei lavoratori, perché non era assolutamente scontato che ci fosse in una scadenza di movimento una presenza organizzata dalle strutture dei lavoratori, e questa cosa qui comincia a darsi invece in modo più preciso proprio nella preparazione delle manifestazioni di Genova, e come vedremo poi anche nella grande manifestazione di risposta all'uccisione di Carlo Giuliani il 21, le presenze effettivamente non saranno solamente dei giovani, dei collettivi, delle aree di movimento, ma anche di pezzi significativi del mondo del lavoro. Poi magari non ci sarà una traduzione in obiettivi chiari e definiti, ma insomma già la partecipazione più consistente di pezzi sindacali qualificano anche maggiormente questo movimento da un punto di vista di classe, no? Per me era una delle questioni fondamentali da seguire. Ok, allora a questo punto iniziamo con la seconda parte dell'intervista, che è quella in cui vorremmo cercare di passare alla creazione di una storia collettiva. La domanda che quindi a questo punto ti facciamo è se hai voglia di raccontarci come sei tornato da Genova, cioè quali sono i pensieri, le riflessioni, le idee, come hai pensato si fossero modificati i rapporti all'interno del movimento dopo Genova? Beh, innanzitutto, per continuare esattamente questo concetto, no, del fatto che non ci possa essere una forma, diciamo, di preminenza da parte di una componente nei confronti dell'altra, ma dovessero essere ricercate delle sedi con una partecipazione dal basso, di carattere assembleare, in cui le varie ipotesi potessero confrontarsi, potessero trovare un punto di incontro e mantenere eventualmente anche delle progettualità politico-teoriche differenti, però sempre in un quadro di costruzione di un punto di convergenza. Le prime uscite da dopo Genova, tra l'altro c'è qualcuno che ha detto tutto quanto finisce con la repressione di quei giorni, e non è affatto vero, perché avremo invece di fronte mesi e in parte qualche anno di iniziativa significativa, per cui quando si torna da Genova si torna per rimobilitarci a livello delle realtà territoriali. A Milano ci sarà anche una grande manifestazione come in tante altre città, e scatta immediatamente la questione del passaggio contro la guerra, perché di lì a poco si scatena con la vicenda legata all'11 settembre la guerra globale permanente di Bush e tutto quanto viene risucchiato dentro quella logica. E io credo che quel tipo di risposta che ci sia stata e che c'è stata a partire da settembre, quindi subito dopo Genova, sia stata una risposta che tutto sommato è stato di carattere unitario, cioè non ci si è divisi sulla base delle valutazioni, che allora potevano anche essere diverse su come si era organizzata la mobilitazione a Genova, ma si è reagito in una forma unitaria per un anno intero fino alla mobilitazione di Firenze dell'anno successivo. Cioè, io credo che il movimento non abbia diciamo, fatto degli errori particolari nella fase immediatamente successiva al G8 di Genova, ma ci siano state altre interferenze, altre responsabilità di carattere politico generale che hanno comportato una chiusura di un ciclo che con Genova si era in qualche modo aperto, e con Seattle da una parte, ma anche per quello che riguarda l'Italia con Genova. E io credo che questa sia, diciamo, sostanzialmente la deriva di alcune componenti del movimento, quelle che nascevano con una storia politico-partitica, e lì ne parlo in prima persona perché parlo della fine del ciclo della rifondazione, con diciamo, un ritorno dall'essere stato una delle componenti che accettavano la risultante del movimento come propria linea politica, così veniva detto ad esempio dal segretario di allora Fausto Bertinotti, a invece scegliere, scartare da questo tipo di impostazione, muoversi in una logica di condizionamento del centro-sinistra che significheranno una mazzata terribile nei confronti delle potenzialità che a Genova si erano dispiegate moltissimo. Tra l'altro ci sono dei passaggi in mezzo come il referendum sull'articolo 18, una mobilitazione importante organizzata prima dalla CGIL, ma la questione del referendum sull'articolo 18 per l'estensione a tutti era una modalità per dare un colpo assolutamente positivo in avanti, una spinta in avanti. È vero che quella cosa non raggiungerà il quorum, però dal punto di vista del pronunciamento avremo 11 milioni di persone che si schiereranno su quell'obiettivo, e non era una massa di persone diciamo poco interessante, e raccoglieva un po' una spinta che veniva da Genova e anche dalle diciamo sensibilità crescenti sulla questione dei diritti dei lavoratori che venivano interpretate anche da svolte di sindacati. C'è una svolta ad esempio nella FIOM, nei metalmeccanici, sto parlando ovviamente di cose che ho sempre seguito dall'interno, e questo significa non poco. Quindi abbiamo tutta una serie di elementi positivi di diciamo reazione per un periodo che possiamo collocare fra il 2001, il 2003 e il 2004, e poi una fase in cui appunto una delle componenti, ma non solo, no, ci sono vari che guardano alla politica ancora in modo tradizionale, che sono risucchiate in una logica che sarà effettivamente perdente. La partecipazione di una parte di queste forze al governo Prodi, al progetto di governo e poi al governo stesso, e la cooptazione anche di alcuni dirigenti del movimento, pensando che questo potesse essere lo sbocco politico di quella cosa, penso che sia stato uno dei più grandi errori, e quindi per cercare di costruire, se l'obiettivo è quello, una memoria condivisa, io credo che ancora una volta una lezione possa essere quella della necessaria autonomia dei movimenti dal quadro politico. Tra l'altro il movimento dei movimenti era un movimento che parlava diciamo per la prima volta al di fuori dei condizionamenti, dei tempi e delle modalità della politica di ogni singolo paese. Era un movimento internazionale, poneva una serie di questioni di carattere strategico e di fondo, e dettava sostanzialmente una propria agenda. Il far rifluire invece questo in un tentativo di condizionare il centro-sinistra locale, penso che sia stato un po' diciamo, l'elemento devastante. Molti di noi ovviamente si opposero a questa deriva anche all'interno ad esempio di Rifondazione, no? Ma questa cosa si consumò fino in fondo. Io credo che la lezione che possiamo trarre tutti quanti, e mi pare che anche gran parte di coloro che continuano questa esperienza politica la pensino in questi termini, che bisogna oggi pensare a un'autonomia forte dei movimenti e che le modalità di organizzazione di questi devono passare sempre da un metodo democratico, in modo tale che le varie componenti che ci sono, esisteranno e ci saranno sempre evidentemente, si possano confrontare nei luoghi per poter fare delle scelte. Se adesso dovessi, diciamo, pensare alle scadenze dell'autunno, mi farebbe effettivamente molto piacere, e qualche avvisaglia c'è in questa direzione, che invece di avere la convocazione da parte di questo o di quell'altro sindacato di base, di uno sciopero in concorrenza magari con un altro pezzo del sindacalismo di base, che si arrivasse ad avere delle sedi unitarie per poter lanciare delle iniziative che possono trovare la convergenza di tutti. Io penso che questo dovrebbe essere un metodo che, misurato nella sua efficacia nei momenti più significativi di quella fase storica, potremmo recuperare positivamente oggi. Beh, devo ammettere, Gigi, che sberla. Cioè, hai detto una serie di cose, secondo me, veramente estremamente interessanti, sia nell'analisi di ciò che è successo che dei risultati che ha avuto. E onestamente poco si parla all'interno dei movimenti, o del movimento, parlo della mia esperienza qui a Milano dentro lo ZAM, di alcune scelte che furono fatte ai tempi di partecipare alla vita parlamentare piuttosto che nelle istituzioni, quasi come se fosse un peccato che non si deve nominare. Invece, cioè, tu che ne parli così, con questa chiarezza, esponendo le scelte, i risultati e quello che si è sbagliato, secondo me è tantissima roba a livello di comprendere cosa è successo. Grazie mille. E a questo punto ti faccio la terza domanda, che per noi è stata molto importante, perché vorremmo capire qual è il tipo di autoanalisi e coscienza che hanno avuto le persone che hanno partecipato a Genova rispetto a quello che è successo. La domanda è questa: ci sono delle opinioni, delle idee, dei concetti che ti sei fatto subito dopo Genova che nel corso di questi 20 anni hai cambiato, ti sei dovuto ricredere, hai pensato no, effettivamente questa cosa l'ho detta, l'ho pensata subito, l'abbiamo detta, l'abbiamo pensata subito come collettività rispetto a quella di cui facevi parte tu, ma che poi nel tempo hai capito che erano state posizioni scorrette, sbagliate, giudizi affrettati, o piuttosto che fatti senza effettivamente poi cogliere la realtà delle cose che erano successe? Ma guarda, mi verrebbe da dire diverse cose, no? Però forzo un pochettino la tua domanda per dirne una che forse diciamo non avevamo tutti ben colto in quel periodo, e cioè il fatto che ci fosse una repressione fatta in quel modo, l'abbiamo ricostruito molto bene, no? Cioè l'avevano preparata. Mi è capitato anche di mettere le mani, poi facendo parte del Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi, ad alcuni elementi magari non detti esattamente per parlare di quell'argomento, ma magari parlando della guerra in Iraq si vengono a sapere delle cose che riguardano lo stato dell'ordine pubblico in Italia, i comportamenti e le manovre del capo della polizia Gianni De Gennaro, che diventa poi capo di tutti i servizi segreti, piazza i suoi uomini in punti strategici degli apparati di sicurezza. Ecco, quello che forse non abbiamo analizzato bene e che dal punto di vista di forze che vogliono cambiare il sistema dovrebbe invece essere abbastanza presente, è capire che cosa è avvenuto a partire anche dalla vicenda di Genova nel cambiamento delle strutture dell'ordine pubblico, perché questa operazione è un'operazione che, diciamo, è stata un'operazione studiata e ragionata a livello internazionale. È quello che, per usare le parole stesse diciamo dei settori imperialisti, a partire appunto dall'imperialismo americano, che dice c'è un fronte di guerra che è il fronte esterno, è quello ovviamente allora Afghanistan, Iraq, Medio Oriente eccetera eccetera, ma c'è anche un fronte interno, e il fronte interno deve essere combattuto esattamente come i nemici esterni. E questa cosa comporta una riorganizzazione delle forze di sicurezza che non abbiamo colto fino in fondo, e siamo stati abbastanza spettatori distratti di quello che avveniva nella riorganizzazione appunto del complesso delle forze dell'ordine. Non c'era passata abbastanza indifferente che sotto il governo D'Alema nel 1999 i carabinieri carabinieri erano diventata la quarta forza armata. Ecco, pensare che cosa poteva succedere, ed è successo non a caso, che chi si trova nei teatri di guerra, magari in Somalia ed altre parti, no? Come carabiniere, e poi torna in operazione di ordine pubblico nella piazza, quando ha sparato normalmente, no? In una guerra guerreggiata, gli rientra anche abbastanza più facile pensare di dare la continuità utilizzando gli stessi mezzi, cioè alcune cose cambiano veramente la struttura stessa dell'organizzazione della repressione. Quello che era nato dentro i sindacati di polizia come la modernizzazione, il fatto che la polizia deve essere totalmente inserita nel quadro costituzionale, quindi la scuola, diciamo, di formazione deve essere fatta in termini diversi, lì viene completamente spazzato via, e qualsiasi cosa che possa portare alla sospensione della democrazia comincerà a essere applicata fino in fondo. E quindi mi pare abbastanza evidente che quello che succede all'interno delle caserme oggi per noi richiama alla memoria quello che già avvenne, ma appunto che cosa è cambiato in tutte le strutture, in tutti gli apparati di sicurezza? È un qualcosa che ci è un po' sfuggito, quindi se vogliamo, forse uno degli aspetti che dovremmo tenere più in considerazione, e quindi per quello che posso pensare io stesso, anche in senso autocritico, è che abbiamo sottovalutato tutta una serie di passaggi che sono avvenuti nel corso di quegli anni e si sono perfezionati poi nel tempo proprio dal punto di vista delle strutture di repressione. Sto dicendo una cosa molto parziale, no? Però ci scappa un pochettino di mano questa roba qua, per cui a volte diciamo verifichiamo delle cose che succedono, ma non le colleghiamo a qualcosa che si è strutturato con il passare del tempo, e soprattutto, questo lo dico con una certa angoscia, con un atteggiamento bipartisan da parte delle maggioranze e delle opposizioni parlamentari, perché queste cose sono passate lisce, e quando passano di criteri della tortura, oppure c'è stato il periodo delle cosiddette dette renditions, no? Cioè il fatto di poter catturare qualcuno e magari non torturarlo direttamente, ma portarlo in Egitto perché fai l'esternalizzazione della tortura e cose di questo genere, non sono delle cose a cui noi abbiamo partecipato indirettamente, le abbiamo organizzate direttamente nei teatri di guerra, le abbiamo fatte, ma le stiamo facendo anche all'interno dei nostri territori. Questa cosa, per chi vuole cambiare il mondo, dovrebbe essere un pochettino più presente. Io su questo dico che forse un pezzettino di riflessione dovremmo farla un pochettino più attentamente. Ok, grazie mille. A questo punto io, più che la quarta domanda, volevo farti un'altra domanda così in aggiunta, perché adesso che hai parlato del fatto che queste cose sono state accettate bipartisan, i governi successivi poi non sono ritornati sul punto pretendendo una su tutte l'identificazione del personale della Celere, piuttosto che un'intensificazione delle leggi sulla tortura, esatto, eccetera eccetera. Parlando proprio, facendo un'intervista con Luciano, lui dava questo spunto di analisi. Di fatto il movimento a Genova, ma anche negli anni successivi, soprattutto con le mobilitazioni per la pace, si è trovato ad affrontare un grosso problema, e cioè che dall'altra parte chi deteneva il potere non aveva alcuna intenzione di cedere in nessuna maniera nessun tipo di potere. Cioè il movimento si è scontrato, pur essendo numeroso e potente, contro un soggetto che era disposto a qualunque cosa, anche a contravvenire a quelli che dovrebbero essere le sue basi fondamentali, la democrazia, il rispetto della persona, eccetera eccetera, pur di mantenere il proprio assetto e di non lasciare nessuno spazio a chi si ribellava. Come facente parte del Parlamento italiano in quegli anni, tu come hai avvertito questa cosa e come si manifestava all'interno di quegli ambienti? Se è possibile dirlo, se si riesce a descrivere, se si può... No, devo dire, particolarmente demoralizzante. Continuo sul filone che avevo affrontato in precedenza. Noi abbiamo, prima di Genova, il governo Amato, che segue immediatamente il governo D'Alema, rimane ministro degli interni Enzo Bianco. Stiamo parlando di un governo di centrosinistra. Tutto quello che avviene, la nomina del prefetto De Gennaro a capo della polizia, ecco, dura 20 anni la storia di De Gennaro, fino a quando diciamo ricopre l'incarico di presidente di Finmeccanica. Questa cosa qua nasce nell'ambito del centro-sinistra. Le cose che riguardano, fatto assolutamente determinante dal punto di vista della modificazione del mercato del lavoro con la legge Turco-Napolitano, ad esempio, per quello che riguarda l'immigrazione, che poi sarà peggiorata dalla Bossi-Fini, ma su una scia aperta in quel senso. E ai giorni nostri, Minniti e quello che significa fare accordi con la Libia e tutto quello che ne è avvenuto, la Guardia Costiera, tutto quello di cui parliamo in questi giorni. Ecco, addirittura in alcuni casi da apripista non è stato neppure il governo Berlusconi o i governi di destra. Abbiamo addirittura avuto una rincorsa. Gianni De Gennaro fa le cose che fa ben prima di piazzarle proprio a Genova, le sperimenta prima, e su quello non c'è nessuno che dice niente. Quando c'è un comitato di controllo sugli apparati di sicurezza, si chiamava Copaco allora, si chiama Copasir oggi, ci sarebbe uno strumento per tenere sotto controllo le cose. Io, avendone fatto parte per tutta una legislatura, devo dire che i comportamenti dei componenti di maggioranza e opposizioni sono assolutamente identici, cioè tutto quanto va per scontato, cioè avvengono delle cose che dovrebbero in qualche modo far pensare, no, che non è possibile violare la Costituzione, ma si dà per scontato che i servizi facciano questo. Infatti mi fa incazzare particolarmente l'idea che si debba usare il termine di servizi deviati. I servizi hanno la loro funzione. Cioè, erano proprio quello, quella la quelli funzione, deviati, quelli giusti. Ciao, ok. Non ci sono, ma appunto che questa cosa da parte di quelli che dovrebbero tutelare gli interessi della popolazione, di far applicare la Costituzione, non ha niente a che vedere. Quindi che tipo di degenerazione ha assunto il Parlamento e le cosiddette istituzioni democratiche, che poi al dunque avallano tutte le cose possibili e immaginabili, le peggiori cose che possiamo pensare. È chiaro che non si riuscirà mai ad avere la ricostruzione delle responsabilità delle stragi, eccetera. Sì, abbiamo avuto una serie di elementi e di indizi per darci la valutazione storica, ma dal punto di vista politico-giuridico queste cose sono rimaste assolutamente senza nessuna spiegazione. Quindi, diciamo, questa roba qua è una complicità, non per far dire sono tutti uguali, ma se continua questo andazzo a livello delle strutture parlamentari, io quando sono entrato dentro non avevo l'idea nel 2001 che fossero tutti uguali, destra e sinistra. Quando ne sono uscito ho cominciato ad avere qualche dubbio sul fatto che ci fosse qualitativamente un atteggiamento diverso nei confronti, diciamo, di queste questioni fondamentali. Quindi questa roba ci fa dire che non è possibile pensare di entrare in una struttura istituzionale di questo tipo, non sto parlando di un comune, sto parlando del Parlamento nazionale, con l'idea che è possibile modificarlo dall'interno. Certo, una presenza all'interno può dare voce effettivamente importante, questa cosa guai se pensassimo che non serve assolutamente a nulla, ma è altro da quello che lì è possibile modificare le cose. L'abbiamo visto anche in Europa, la possibilità che alcune forze arrivassero a controllare persino quasi completamente dei governi e poi ben altri che decidessero le cose da un'altra parte. Quindi bisogna pensare ad un atteggiamento diverso nei confronti di questi luoghi, che sono luoghi di potere tra molte virgolette, perché i posti dove si decidono effettivamente le cose sono altri, quelli che in qualche modo controllano direttamente i padroni e che prescindono un pochettino dagli aspetti, diciamo, di elezione democratica. Questa cosa ci fa dire che concentrare la nostra attenzione sugli aspetti elettorali parlamentari non è forse la cosa migliore da fare, ma forse bisogna costruire con le nostre possibilità, con quello che riusciamo a fare, con gli elementi di convergenza anche tra i vari movimenti, delle strutture di rappresentanza dal basso, delle forme di contropotere dal basso, per usare questa definizione. Se dovessimo usare il linguaggio zapatista, ne useremo ancora altre forme di autogestione e di autogoverno, su cui pensare di costruire le basi di un qualcosa di alternativo. Pensare di prenderla dall'alto e di risolvere le cose con le liste elettorali, probabilmente, ancora per tornare su quell'elemento, no, della chiusura anticipata probabilmente del ciclo di Genova, è forse sbagliato. Quindi l'esperienza parlamentare mi è servita anche per capire un pochettino meglio come ci dobbiamo comportare nei confronti di queste istituzioni. Non dobbiamo dipendere assolutamente da queste, dobbiamo agire dal basso, costruire i rapporti di forza nella società e poi cercare di ottenere dei risultati anche su quel piano lì. In fondo anche l'esperienza storica del Partito Comunista Italiano, in cui non mi sono mai identificato perché mi sono sempre collocato in formazioni alla sua sinistra, anche negli anni 70, però dà l'idea che quando c'è comunque una forza, e quella forza era la forza sociale del 68-69, insomma in quel periodo, anche quando sei all'opposizione, per riuscire a strappare delle cose particolarmente significative. Quindi l'idea del governismo, no, che è venuta fuori in particolare con tutta la fase di Craxi eccetera eccetera, che a partire da lì si modifica il mondo, è proprio da ribaltare nel suo contrario. Se tu costruisci dei rapporti di forza importanti nella società, forse puoi strappare qualcosa anche da quel mondo lì, altrimenti è quel mondo lì che ti ammazza. Va bene, è stata anche questa una risposta fantastica. A quel punto, in realtà, l'ultima domanda ci hai già risposto nelle altre domande, però te la faccio lo stesso. Secondo te, da cosa dovrebbe ripartire il movimento per ritornare ad avere quel peso, quell'importanza e soprattutto quella pervasività nella società, quella grandezza di presenza, di creatività, di forza, di partecipazione? Ma qui, guarda, si può dire una cosa forse più interessante, cioè guardiamo bene le cose anche nel momento più alto e più tragico dato dalla pandemia, dalla crisi economica, le cose che abbiamo fatto e che forse avremo bisogno di mettere a tema come progetto generale, le modalità mutualistiche dal basso, no? Ecco, io credo che siano un segnale importante di come si possano forse ricostruire le condizioni per pesare di più all'interno della società, cioè cercare di dare delle risposte ai bisogni qui ed ora e inserirli in un progetto di costruzione alternativa. Non parlare solo propagandisticamente, no? I partiti, mi dispiace, un po' tutti fanno questo, e penso che si sia consumata veramente una fase storica in cui forse hanno molto meno da dire, no? Sono molto meno riformabili i partiti che non, diciamo, quelle forze che agiscono dentro la società per loro natura. Sto parlando di noi, no? Delle nostre realtà, ma parlo anche delle organizzazioni sociali che si possono forse trasformare, perché non è più possibile pensare di dare delle risposte solo come un tempo, no? C'ho un bel programma, costruisco una mobilitazione, faccio propaganda e poi raccolgo elettoralmente. No, forse conviene pensare di dare delle risposte, cioè la parte che anche nella nostra piccola esperienza che stiamo facendo alla Remaflo, il giro fuori mercato, cioè queste cose cercano di dare delle risposte e di inserirle in un progetto di costruzione alternativa. Io penso che se ragioniamo di più su quello che possiamo effettivamente fare, penso che è lì la cosa, no? E per ricordare Genova e il movimento dei movimenti, la partecipazione dal basso, la costruzione di reti, nascevano forum sociali su qualsiasi tematica, mi ricordo quello sulla salute, mi ricordo quello sull'ambiente, cioè avere dei luoghi che possono essere condivisi e poi messi dentro appunto una spinta di cambiamento radicale. Penso che le occasioni ci saranno, no? Anche a partire da questo autunno in cui ci possiamo cimentare, se riusciamo ad avere dei luoghi di convergenza tra tutte le forze antagoniste. Io credo che saremo messi nelle condizioni migliori. Bisogna risalire una china terribile, perché siamo andati veramente a fondo, ma è la speranza, diciamo, che con queste modalità la possiamo affrontare nel modo più adeguato possibile. In fondo ho 70 anni, no? Cioè, sono arrivato abbastanza in fondo, mi piacerebbe, no, che nel prossimo periodo, invece di andare indietro, cominciamo a risalire un pochettino questa china. 70 anni ma non si sentono per niente. Gigi, io sì. Gigi, io sono veramente, cioè, più contentissimo, grazie di tutte le risposte, non ho più niente da chiederti, ti lasciamo andare, anche perché appunto è stata una cosa improvvisata all'ultimo minuto, per cui più di così non mi sento nemmeno di poterti chiedere. Grazie davvero. Dai, tantissimo, grazie. Spero che il 20 ci si veda a Genova, noi partiremo qui pullman tutte assieme. Ci vediamo lì, per allora, forza, come si potrebbe mancare. Esatto. Dai. Grazie mille, Gigi Malabarba. Un grande abbraccio. Buona serata a tutti e tutte.